L'Evangelo quale fonte di ricchezza? È opinione comune che il cristiano debba essere una persona povera, o almeno non può essere ricca. Sembra che il messaggio dell'Evangelo e la ricchezza siano due cose che non vadano d'accordo. Da dove viene questa opinione? Possiamo dire che sia biblica? A prima vista sembra improbabile, perché dobbiamo riconoscere che il cristianesimo ha come principio base tutta una serie di non. I 10 comandamenti ne sono una prova. Non ucciderai, non ruberai, non dirai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non commetterai adulterio, eccetera. Da questi principi sorgono di conseguenza tutta una serie di non. Non è lecito esprimersi in modo sboccato, non è lecito guardare ciò che eccita, non è lecito svolgere attività che incoraggino la menzogna, e così via. Inoltre, come se ciò non bastasse, vi sono tutta una serie di espressioni nella parola di Dio che sembrano invitare alla povertà. Vediamone alcune. A. Il sermone sul monte inizia con «Beati voi che siete poveri», Luca 6,20, e i poveri non sono solo in spirito, ma anche nel senso letterale. B. Il libro della saggezza divina insegna «Non ti affannare a diventare ricco», Proverbi 23,4. C. Gesù disse: guai a voi ricchi, Luca 6,24. Con la parola guai, Gesù metteva i ricchi pari alle persone più odiose, cioè i falsi religiosi e gli ipocriti. D. Una delle più belle preghiere che troviamo nella Bibbia è: non mi dare povertà né ricchezze. Proverbi 38. L'ambizione del cristiano deve essere quella di avere obiettivi equilibrati, e possedendo delle ricchezze si esce fuori dal concetto di equità. E, in un discorso in merito alla ricchezza, Gesù disse: «È più facile ad un cammello passare per la cruna di un ago che un ricco entrare nel regno». Matteo 19,24, Marco 10,25, Luca 18,25. Non vi è dubbio che Gesù vedesse le ricchezze come un grave ostacolo per ottenere la vita eterna. Nella parabola del seminatore, ciò che soffoca la parola di Dio sono le ricchezze. L'inganno delle ricchezze affogano la parola, Matteo 13,22. Le ricchezze sono dunque non solo un ostacolo per ottenere la vita eterna, ma anche per vivere una vita cristiana fruttuosa. G. Al giovane ricco Gesù disse: «Va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri», Matteo 19 e 21. In questo caso Gesù non incoraggia a tenersi delle ricchezze. H. Gesù visse nella povertà. Paolo visse nella povertà. La Chiesa ha sempre vissuto nella povertà. C. Giacomo nella sua lettera scrive parole forti contro i ricchi, arrivando a dire: guai a voi ricchi, per terminare affermando che il ricco appassirà nelle sue imprese, Giacomo 1 e 11. Dunque queste verità hanno spinto alcuni credenti a pensare che l'ottimale e la vita cristiana è la povertà, non solo in senso spirituale ma anche materiale, e qui sta il grande errore che come credenti dobbiamo correggere. In Efesini 3,8 l'apostolo Paolo afferma di essere stato mandato per annunziare le non investigabili ricchezze di Cristo. Quindi, secondo l'Apostolo, annunziare Cristo voleva dire annunziare ricchezze oltre misura. Non solo. Chi pone fede in Cristo, Gesù diventa erede di tutto ciò che appartiene a Cristo. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Romani 8,32. Ricevere ciò che appartiene a Cristo significa entrare in possesso niente meno che dei beni di colui che è figlio di Dio. La nostra mente non riesce neppure a pensare a cosa si possa entrare in possesso. Per questo il credente diventa coerede di Cristo, e in lui ha tutto pienamente. Colossesi 2,9. Il credente è talmente ricco che dal suo seno sgorgano fiumi di acqua viva. Giovanni 7,37. Perché Dio non concede uno spirito su misura, Giovanni 3 e 34. E per questo il credente è chiamato a farsi tesori in cielo, Matteo 6, 19, 20, vendendo ciò che è terreno per appropriarsi dei valori eterni, Matteo 13 e 45. Ma qualcuno dirà queste ricchezze sono sempre spirituali. Dove sono le ricchezze materiali che il credente può avere? Oppure l'Evangelo parla solo di ricchezze spirituali? Di ricchezze materiali che il credente può e deve avere ce ne sono tante. Solamente che i nostri occhi spesso sono così fissi verso ciò che il mondo ritiene importante, da non notare ciò che già possiede. Prima di entrare in merito allo specifico, è bene ricordare un principio generale, che è una legge. Come lo spirito influisce sul corpo, così il campo spirituale influisce sul materiale. In altre parole, se una persona è serena e tranquilla, avrà molte meno malattie di chi è sempre nervoso e collerico. Così chi avrà una giusta filosofia di vita cristiana avrà un giusto rapporto con il materiale, come ad esempio col mangiare o il denaro. Se sono un cristiano, mi alimento per vivere, non mangio per gozzovigliare e non bevo per ubriacarmi. Così, se sono soddisfatto in Cristo, il denaro non potrà essere una mia passione spasmodica. Dunque, una vita nuova per lo Spirito Santo produce un cambiamento in tutti i settori della vita, come in quello nel campo sociale. Se ci fosse onestà, pace, sicurezza, amore, armonia, non si spenderebbero soldi per gli armamenti, per gli antifurti, per le galere. Se ci fosse l'amore, non ci sarebbero querele, divorzi, tripicche. Tutte queste cose richiedono ingenti spese che potrebbero essere usate per il bene di tutti. Ci sono promesse nella parola di Dio che non possono che essere prese alla lettera, diversamente il cristianesimo diventa la beffa più grande che esista. Un giorno Gesù disse ad un ricco che era più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Pietro, che aveva capito la gravità della situazione, intervenne. Ecco il racconto nel Vangelo di Marco. E Pietro prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito». Allora Gesù, rispondendo, disse: «Io vi dico in verità che non è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o poderi per amor mio e dell'Evangelo, che non riceva il centuplo ora, in questo tempo, in case, fratelli, sorelle, madre, figli e poderi, insieme a persecuzioni e, nel secolo a venire, la vita eterna». Marco 10, 28-30. La promessa di Gesù è piuttosto ambiziosa. Chi avrà lasciato non solo degli affetti umani, ma anche case o terreni, per amor di lui, ne riceverà 100 volte tanto. E, possibile questo, dove vediamo che i credenti hanno 100 volte tanto rispetto a quello che hanno lasciato per Cristo? Anzi, ho letto la storia di uomini e donne che hanno speso tutta una vita per servire Dio e la sua opera, e alla fine ritrovarsi con il minimo necessario e una salute inferma. Gesù ha forse detto delle menzogne? E forse il cristianesimo una grande illusione? Sono domande che dobbiamo porci, perché non si possono chiudere gli occhi di fronte alla realtà, come non possiamo chiuderli a coloro che osservano i cristiani, che generalmente non sono i più ricchi di questo mondo. Le domande sussistono perché noi abbiamo un concetto sbagliato di ricchezza, perché per noi ricchezza è sinonimo di quantità, di benessere, di allegria. Ma, come tutti sanno, quantità di beni, benessere abbondante, allegria sfrenata non sono automaticamente sinonimi di ricchezza. Chi ha posto fede in Gesù e vive alle sue dipendenze, se cerca come prima cosa il regno di Dio, realizza la promessa che il cibo e il vestiario sono un di più. Questo significa essere ricchi materialmente. Vi sono persone che hanno cibo e vestiti fino alla nausea, ma sono poveri peggio di un povero. Non è la quantità che rende ricchi, ma l'appagamento per quello che ha. Posso avere un centinaio di paia di scarpe e non essere soddisfatto, sia per ciò che ho, sia perché ho sempre l'imbarazzo della scelta, mentre posso essere pienamente appagato con meno. Avere bicchieri, pentole, oggetti casalinghi in vetrina per non usarli non rende ricchi, mentre con meno e utilizzandoli sono veramente soddisfatto. Sono andato a trovare una parente e, tutta soddisfatta di aver comprato un tavolo prezioso, me lo ha fatto vedere. Sollevò prima una tovaglia di plastica. poi un panno, poi un altro panno, un altro telo di plastica. E infine comparve il tavolo. Aveva un tavolo stupendo, ma non lo vedeva mai, non ci mangiava per non rovinarlo. Lo aveva messo in un angolo della sala perché fosse protetto. Quant'anche questa mia parente avesse avuto un tavolo d'oro, era povera perché, come disse qualcuno, la roba non è di chi l'ha, ma di chi la gode. E meglio un tavolo modesto, che si usa e si gode, che possederne uno bellissimo e inservibile. Il cristiano che considera le cose dal punto di vista di Dio è un uomo ricco perché sa valorizzare ciò che possiede. Si rende conto di possedere 100 volte tanto di ciò che hanno gli altri. L'Apostolo Paolo non era certamente un uomo ricco secondo il punto comune di vista, eppure fu lui a scrivere quanto segue. In ogni cosa raccomandiamo noi stessi come ministri di Dio nelle molte sofferenze, nelle afflizioni, nelle necessità, nelle distrette, nelle battiture, nelle prigionie, nelle sedizioni, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purità, con conoscenza, con pazienza, con benignità, con lo Spirito Santo, con amore non finto, con la parola di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nel disonore, nella buona e nella cattiva fama, come seduttori, eppure veraci, come sconosciuti, eppure riconosciuti, come morenti, eppure ecco viviamo, come castigati, ma pure non messi a. Con l'affermazione di queste parole Paolo può apparirci o uno squilibrato, perché diceva di essere povero ma arricchiva molti, perché diceva che non aveva nulla ma possedeva tutto. Oppure uno che viveva il vero cristianesimo come fonte di ricchezza. Il Vangelo di Cristo è fonte di ricchezza sia spirituale che materiale, e lo dimostra il fatto che ovunque arriva il messaggio del Vangelo, soprattutto in quei paesi più poveri, se viene creduto porta assieme a sé anche il progresso sociale. Allora, se i credenti si lamentano e vivono come poveri, ciò non è dovuto al messaggio del Vangelo, ma ai figli di Dio che, come il fratello del figlio prodigo, hanno tutto a disposizione, ma non lo usano. La ricchezza ci è, ma deve diventare nostra per un atto di fede, che Dio non ci rimproveri un giorno per essere vissuti da poveri quando eravamo ricchi. Febbraio 2005, Ellero,